Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le prime indagini lasciano scorgere una verità meno scontata di quanto si potesse pensare in un primo momento. I terroristi non sono i figli della disperazione di uno dei paesi più poveri del mondo, ma i discendenti dell'élite del Bangladesh, scuole private da $3,000 l'anno, una cifra altissima qui, poi l'iscrizione ai college. Un noto politico che aveva denunciato dal 30 dicembre scorso la scomparsa del figlio lo rivede oggi nelle foto pubblicate prima da Hamak, che ha ospitato la rivendicazione dell'ISIS, poi dai quotidiani di tutto il mondo. Divideva il mondo tra islamici e gli altri, dice oggi un suo ex compagno di scuola, una testimonianza strappata controvoglia in un paese dove una parola fuori posto può tradursi in una condanna a morte, con una escalation di violenza negli ultimi mesi ormai fuori controllo. È un tema che secondo me questa mattina non potrà non appassionare le persone che mi ascoltano, al di là del momento di riflessione e dolore per gli italiani vittime di questa ultima strage. Poi non è nemmeno l'ultima, la penultima, perché ce n'è stata un'altra dopo a Baghdad, 200 morti e 150 feriti. Però è brutto fare il conto dei morti e dei feriti, ce n'era stata una prima a Istanbul, 45 morti. Noi però abbiamo più vicino a noi, nei nostri titoli dei giornali, nei mezzi di informazione, la strage di Dhaka. Perché? Perché sono morti degli italiani. Ma non credo soltanto per quello, non credo ci sia soltanto un bisogno di parlare soltanto di ciò che ci colpisce nella nostra carne nazionale. No, c'è qualcosa di più, perché i ragazzi del Bangladesh, che vediamo oggi descritti nella loro fascia alta, nella maggior parte dei titoli, i rampolli delle famiglie che contano, uno era anche figlio del leader del partito Awami, che è il partito che dal 2014 è al potere nel Bangladesh, quindi hanno dei figli di papà, figli dei politici, le stesse persone, se vogliamo fare un parallelismo, che nei nostri anni di piombo abbiamo visto scendere in campo nella lotta armata. Con una lieve differenza però: i nostri figli di papà, che volevano far rivoluzionare, in realtà avevano in mente un progetto di rivoluzione, ma non di autoannientamento. Questi sono ragazzi che avevano tutto in un paese dove la maggior parte della popolazione non ha nulla. È uscito su Internazionale un reportage preso dal Guardian, che parla delle condizioni di lavoro disperate nelle grandi fabbriche tessili, dove lavorano bambini, lavorano donne, sfruttatissimi, tessili che poi producono i prodotti, le magliette, i vestiti, le giacche, le camicie che noi indossiamo. No, noi siamo molto più personalmente colpiti da questo tipo di strage, perché noi ragazzi del Bangladesh li vediamo tutti i giorni, li conosciamo. Chi non ha un amico del Bangladesh, chi non c'ha un ragazzo ti sorride la mattina o la sera quando verso mezzanotte ti trovi improvvisamente senza birra, senza superalcolici, senza fragole, senza generi di consumo, e sai dove andare a colpo sicuro? Da ragazzo del Bangladesh che c'ha la sua lucetta accesa, è seduto sulla seggiolina adesso che è estate, sta lì insieme ai suoi amici, è pronto, è simpatico, c'ha dei prodotti che troveresti ovunque, quindi benedici il fatto che sia un ragazzo del Bangladesh che abbia investito in Italia. Beh, e qual è la forbice che divide i ragazzi del Bangladesh ricco e opulento, la piccola porzione sociale che hanno fatto questo attentato, e quelli che vediamo tutti i giorni? Qual è il ponte che li unisce? Qual è la realtà di questo paese che conosciamo soltanto nelle sue propaggini di immigrazione? Beh, di questo oggi vorremmo parlare, e aspetto da voi il vostro contributo, che so che ognuno di voi comunque un'idea in testa ce l'avrà dalla sua esperienza quotidiana. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Questa mattina parliamo di Bangladesh, per quello che noi ne sappiamo, per la nostra esperienza quotidiana, visto che i cittadini del Bangladesh li conosciamo da anni nelle nostre città, e visto che ne abbiamo una violenta quanto repentina e quanto crudele integrazione nei titoli che leggiamo oggi sui giornali. Improvvisamente sappiamo tutto cosa c'è dietro quei ragazzi che vendono abiti alle bancarelle, vendono frutta, verdura, generi alimentari, insomma li vediamo molto attivi. Ne ho conosciuti di varie generazioni. Io ricordo quando nacque il mio primo figlio, un signore puliva i vetri alle macchine nel semaforo di fronte a casa mia. L'avevamo un pochino adottato, lo vedevamo tutte le mattine, via via i figli crescevano. L'ho rincontrato anni dopo, era un piccolo boss, aveva una serie di frutterie, aveva chiamato tutti i suoi figli, lavorava tutta la famiglia nelle frutterie. Ero contento perché avevo visto una rapida escalation di una persona che aveva cominciato pulendo i vetri e oggi era un piccolo imprenditore di una piccola azienda familiare. Questo mi faceva allegria, mette ottimismo. Però leggendo dietro la gioventù dorata di Dacca, nelle università che potrebbero essere i nostri bocconiani, forse qualcosa di più, azzardo una cosa, che decidono di fare qualcosa che è totalmente reale, perlomeno per la nostra percezione, si fanno saltare in aria. Non capiremmo i giovani dorati che abbiamo visto famiglie ottime italiane saltare in aria sotto i tralicci per fare la rivoluzione, ma ancora non pensiamo che una persona si faccia saltare in aria volontariamente per un motivo trascendente, metafisico, folle, religioso. Oggi vediamo di analizzarlo da due punti di vista questo problema. Ho al telefono Luciano Tirinnanzi, buongiorno. Buongiorno. Che è direttore responsabile della rivista geopolitica Lookout News, che si occupa appunto di scenari geopolitici, quindi ci integra sul discorso più generale, e Andrea Priori. Andrea Priori, buongiorno. Buongiorno. È un ricercatore, l'abbiamo già avuto al telefono un'altra volta in trasmissione, è al Dipartimento di Scienze e la Formazione di Roma 3, è presso l'Osservatorio sul Razzismo dell'Università Roma 3. Lo chiamammo al tempo che ci fu il fenomeno dei Bangla Tour, teppisti che andavano in giro a picchiare e bastonare i ragazzi che avevano diciamo questi esercizi alimentari, non so bene solo per razzismo, anche diciamo su input dei commercianti che si vedevano minacciati. Ha scritto un libro Andrea Priori, Dati editore, Romer Probascira, se lo pronuncio bene non lo so, che proprio è il racconto, ci sono riuscito, è il racconto diciamo di questi cittadini del Bangladesh che cominciano a essere protagonisti anche della vita quotidiana delle nostre città. Parto subito con lei, Andrea Priori, per capire come riusciamo noi a comporre diciamo questo salto enorme fra i ragazzi che vediamo tutti i giorni, li vediamo qui lavorare, in fondo è anche una diciamo una presenza anche tranquilla, raramente ci sono dei problemi legati a cittadini di Bangladesh, sono quelli diciamo più tollerati anche dagli intolleranti, e quest'altra fetta che non sospettavamo, perché noi non immaginiamo mai, se ci poniamo la domanda, cosa ci sia oltre o dietro le persone. Beh, chiaramente si parlava insomma qual era la forbice, qual era la distanza tra questi ragazzi, ci sono varie dimensioni in cui questa distanza può essere rappresentata. Quella più immediata è una distanza sociale, qua parliamo di una jeunesse dorée bangladese che non è certo quella che vediamo qua protagonista dell'immigrazione in Italia. I migranti in Italia dal Bangladesh in generale non appartengono agli strati inferiori della società, ma ai ceti medi, ma non di certo agli strati superiori. Quindi qua nell'immigrazione verso Roma, verso l'Italia in generale, abbiamo una grossa maggioranza di ceti medi, agricoli e urbani, quindi con delle caratteristiche anche sociali, culturali, anche economiche differenti, ma pur tuttavia ascrivibili a quella parte della società bangladese. Il meccanismo è un po' quello che avevo descritto nella mia esperienza personale, limitatissima attualmente, hanno cominciato diciamo una 15-20 anni fa facendo i lavavetri, oggi hanno delle piccole attività imprenditoriali, piccoli, medie attività imprenditoriali. Assolutamente, perché si tratta appunto di persone che provengono da famiglie che hanno abitudine all'attività imprenditoriale, non sono famiglie di lavoratori dipendenti. In Bangladesh c'è anche una grossa componente ideologica nella distinzione tra chi fa business e chi fa lavoro dipendente, insomma se si è di una famiglia di ceto medio alto, di solito si suppone che non si faccia un lavoro dipendente, quindi c'è una grossa vocazione imprenditoriale in generale. Mentre questi ragazzi che sono protagonisti di questi recenti episodi appartengono a un altro mondo, un mondo che laddove emigra punta comunque a delle mete innanzitutto più prestigiose dal punto di vista geopolitico, quindi Londra, New York, eccetera. Di solito emigra per ragioni di studio, non emigra per cominciare a piegarsi al lavoro dipendente nonostante non sia nelle corde della propria famiglia, per poi ridiventare imprenditore con molta fatica. Sono delle traiettorie assolutamente differenti che, per quello che ne sappiamo, non si toccano e non si sovrappongono, insomma, se non incidentalmente. Poi diciamo la classe sociale più reietta, quella che viene descritta oggi nell'ultimo numero di Internazionale, che prende il reportage di un Larry Towell, che è un giornalista di Post Magazine, dalla Cina, fa questo reportage, parla appunto delle operaie ancora schiave in Bangladesh, quelle che lavorano nel manifatturiero, e ricorda la strage di Rana Plaza, un edificio di 8 piani che ospitava proprio delle fabbriche di abbigliamento, che è crollato e ha fatto 1138 morti nel 2013. Fu una strage enorme. Da allora tutti gli investitori da tutto il mondo che investono in Bangladesh nel tessile hanno detto: facciamo un protocollo perché lavorino in sicurezza, ma pare questa cosa non sia mai avvenuta. Quindi è una società abbastanza difficile, abbastanza complessa. E vorrei adesso sentire dall'altro punto di vista, l'altro versante, Luciano Tirindanzi, che stamattina le indiscrezioni, non vogliamo lavorare sulle indiscrezioni, poi visto che è già uscito su vari giornali, su agenzie, pare che la prima analisi fatta dai ROS, che sono andati a vedere il luogo dell'attentato, si sono dati un'idea, che ci fosse l'idea di colpire proprio gli italiani, fosse un bersaglio preciso, non un bersaglio casuale. Sono andati in un posto in cui sapevano che c'erano degli italiani, perché il bersaglio era quello. Potrebbe essere ipotizzabile, nel quadro che siamo fatti, l'idea di vedere gli italiani come un bersaglio da colpire in Bangladesh? No, io non credo che si possa dire questo. Piuttosto si può dire che l'Occidente, gli infedeli, tutto ciò che rappresenta il diverso sia un obiettivo. E io credo che questo schema purtroppo non è legato a un fenomeno locale del Bangladesh, che pure esiste, ma è la ripetizione di una serie di eventi che portano in un'unica direzione, e cioè quella di una nuova minaccia, che è una categoria superiore sia ovviamente alla religione, sia ovviamente all'Islam politico, e che fa dello Stato islamico oltre un'organizzazione, ma un'entità pervasiva che ormai intacca tutto il mondo e che trova schiere e reti di gruppi di opposizione tendenzialmente, che vanno poi a crescere nel tempo. In Bangladesh sono anni che avvengono piccoli omicidi, piccole aggressioni, fino al salto di qualità che abbiamo visto accadere a Dhaka. Però è un dato nuovo quello di Dhaka, non ci eravamo mai immaginati. Sapevamo che l'ISIS reclutava ovunque, reclutava anche in fasce non necessariamente disagiate, ma non pensavo mai che addirittura ragazzi frequentando l'università più esclusiva, una retta di $3,000 all'anno, fossero tentati da questo tipo di uscita dalla loro società. I padri non ne sapevano più niente, e poi li vedono sui giornali che sono fatti saltare in aria in un attentato. Beh sì, c'è una perversione in questo senso. Io credo che purtroppo a certe latitudini, ma non solo, perché è un problema che potremmo aver visto anche in Occidente, questi giovani ribelli che un tempo desideravano diventare delle rock star, oggi preferiscono morire come una sorta di martiri della jihad, perché hanno la consapevolezza che in questo modo loro saranno ricordati per sempre. Sanno che il giorno dopo qualcuno li santificherà, ricordandoli in base anche al numero di vittime che hanno fatto. È una promessa che il califfato rispetta dopo ogni azione. Basta pensare ai video su YouTube, al magazine Dabiq, che addirittura ne fa dei poster e parla dei martiri. I nomi addirittura di questi martiri diventano i nomi di alcuni gruppi terroristici, per cui c'è tutta una dinamica, un mondo che a noi sembrava sommerso, ma che fuori dall'Occidente è ben evidente anche alla popolazione civile. Abbraccia la tesi che sostengono all'interno del Bangladesh, che in realtà non si tratti di propaggine dell'ISIS, ma sia una cosa normale, legata più al contesto geopolitico del Bangladesh, anche perché hanno sì sgozzato gli ostaggi a stessa maniera, ma probabilmente potevano anche pensare di non fare i kamikaze, magari di cavarsela con la volta, se non ci fosse stato uno scontro a fuoco. sono vere entrambe le cose, a mio modo di vedere. Sicuramente nasce dalle opposizioni, diciamo, i gruppi come Jamaat al-Mujahideen, Junal Tawhid al-Khilafa, i soldati del califfato e tutte queste realtà che sono sì locali, ma che hanno una matrice comune e che rimane quella del califfato. Cioè sicuramente da Raqqa, e questo è un dato di fatto perché le intelligence più accorte lo hanno dimostrato, che il califfo Abu Bakr al-Baghdadi ha dato mandato ad Abu Muhammad al-Adnani una sorta di ministero per le operazioni all'estero, e questo ministero esiste, e queste persone sono, che rispondono al-Adnani, sono state mandate in vari paesi, ma è una cosa che già Al-Qaeda aveva fatto ai suoi tempi, per espandere la jihad. Quindi sicuramente oggi noi parliamo dello Sheikh Abu Ibrahim al-Hanif, che è un canadese di origini bengalesi che risponde al nome di Tamim Chowdhury, più o meno, il quale è sicuramente noto da tempo alle polizie locali e ha cercato di pescare, diciamo, le menti più fragili, questi giovani che annoiati della vita oppure per altre ragioni, forse anche insondabili, comunque patologiche. Però sono i primi terroristi di questo filone, che in realtà avrebbero avuto qualcosa da perdere. Gli altri hanno sempre detto, ma in fondo non hanno nulla da perdere, perché erano emarginati, sì, erano c'era sempre comunque questa sorta di sentirsi al di fuori della loro realtà. Questi in realtà erano perfettamente calati in una loro realtà, quindi la spinta ideologica va oltre quello che può essere una rabbia, una sottocultura. Non erano ragazzi sottoculturati, erano ragazzi facevano università esclusiva. Poi ci fermiamo un istante su queste riflessioni, riprendiamo tra un istante anche con gli ascoltatori, stanno già chiamando 800 24 00 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi dice un ascoltatore che deve essere più completo. I bengalesi in Italia lavorano prevalentemente vendendo abusivamente merci taroccate cinesi per strada, inseguiti ogni giorno da vigili e finanza. I mini market di frutta presi con introiti illegali, scontrini quasi zero, non credo siano risorsa per Roma. Risorsa, dico semplicemente, se voglio comprarmi una birra a mezzanotte me la vado a comprare lì, la birra è quella, la bottiglia è quella, se finisco il bagno schiuma alle una di notte so dove andarmela a comprare. Lo scontrino me l'hanno sempre fatto, come il dentifricio, come gli spazzolini. Devo dire, nella moria generale delle saracinesche abbassate alle 20 esatte nei quartieri di Roma, loro sono aperti, le merci che compro non sono contraffatte, sono quelle che comprerei ovunque. Lo scontrino onestamente me l'hanno sempre fatto, è vero, sì, vendono merci contraffatte per strada, scappano, inseguono i vigili, questo non aggiunge nulla, mi pare. Franco, buongiorno. Buongiorno, mi riferisco a una frase che i media hanno poco propagato, che è stata detta dal ministro degli interni bengalesi ieri, dicendo: per attenuare la diffusione dell'ISIS all'interno del paese, ha detto, ma questi no, non erano membri dell'ISIS, e forse anche per sottolineare che erano figli di papà, ha detto, qua fare il jihadista è una moda, aggravando secondo me di molto questa voce dal sé infuggita, secondo me aggrava molto la percezione che noi possiamo avere della situazione in Bangladesh. È una situazione paragonabile alla nostra 100 anni fa, quando c'era una minoranza molto facinorosa di gente che voleva entrare in guerra, e la guerra poi si fece. Erano la maggioranza, erano il 30%, erano il 51%, però erano molto più convinti. No, scusa, solo per capire, Franco, si fece. Sì, Franco, sì. Per capire soltanto, la versione ufficiale finora della polizia bengalese, che appartengono a un'organizzazione clandestina, GMB si chiama, una cosa del genere, dopo ci spiega JMB, è stata citata anche dal nostro ospite, dice non sono l'ISIS ma sono roba nostra, è un'organizzazione nostra. Che sia diventato di moda fare il jihadista nelle frange alte della società, secondo me, ma la mia lettura, poi me lo confermeranno gli ospiti, che vorrebbe corrispondere a quello che accade nel terrorismo negli anni 70 in Italia. Era qualcosa che nasceva comunque anche in molte frange alte della società, anche se allora, diciamo, era più un terrorismo, avendo fatto anche molti morti, che però aveva una nozione meno nichilista. Questi vanno e sanno che comunque difficilmente usciranno vivi dalle loro azioni. Marco, buongiorno. Non si sta sentendo la telefonata? C'è solo un problema. Parlava e sentivo soltanto io. Vediamo se riesce. Io devo combattere con problemi tecnici. Comunque la telefonata non si sentiva. No, sentiamolo, vediamo. Luciano Tirinnanzi, rispetto, ricordo, il direttore responsabile della rivista geopolitica Lookout News. Rispetto a quello che ha detto il nostro ascoltatore, non so se lei l'ha sentito, abbiamo dei problemi atavici nei nostri mixer, spero li risolveranno. Diceva, gli sembrava strano, sembrava quasi una scusa che si giustificasse il ministro degli interni e in generale la voce ufficiale sia che non erano guerriglieri in qualche maniera legati all'ISIS, ma appartengono più a una loro formazione locale. Esattamente corretto il fatto che ormai di moda, ma è qualcosa di più di una moda. Io, ricollegandomi a quello che dicevo prima, punterei a non ridimensionare e non sottovalutare il problema, perché se noi diciamo che è un fenomeno locale, noi non stiamo guardando il vero disegno, che è molto più alto e che solitamente è portato proprio dalle elite culturali, cioè quelle, diciamo, più elevate. Io faccio l'esempio di Bin Laden. Osama Bin Laden non era certo l'ultimo dei poveri dell'Arabia Saudita. Assolutamente. E così Mohammed Atta, quello che materialmente ha costruito il progetto di distruggere le Torri Gemelle, anche lui faceva parte dell'elite culturale. Oltretutto citiamo Dabiq, il magazine ufficiale dello Stato Islamico, che è da novembre che intervista membri bengalesi del Bangladesh e dice esplicitamente, cioè i terroristi in questo non mentono mai, sono sinceri, dicono quello che vogliono fare, non dicono come, non dicono quando, ma dicono esattamente quello che vogliono fare. E lo tra l'altro islamico, una strage, mi scuso se la interrompo, incastonata tra altre due stragi, sembra che esatto, sia difficile che sia casuale. Non è casuale, siamo alla fine del mese di Ramadan, siamo a 2 anni esatti dalla nascita del califfato, quando al-Baghdadi da Mosul dichiara la sua nascita, quindi è un progetto molto, molto grande, e che se noi limitiamo al Bangladesh o diciamo è contro gli italiani o contro i giapponesi, non guardiamo il dito e non guardiamo la luna. Questo pericolo è grande e è, diciamo, in ascesa, è anche di moda, perché di fatto noi non parliamo d'altro, perché i telegiornali aprono con queste notizie, fino a un anno fa guardavamo direttamente gli sgozzamenti in diretta, quindi ormai hanno conquistato i media. E beh, anche nei ranghi giovanili della nostra camorra organizzata stanno assumendo come esempi di crudeltà estrema, probabilmente a pari passo nei protagonisti delle fiction televisive e gli eroi degli sgozzamenti ISIS, perché sono il peggio del peggio, quindi sono il modello più estremo di uomo che non deve chiedere nulla e può avere tutto. Perfetto, è esattamente questo, e l'effetto moltiplicatore è pericolosissimo. Certo, è un altro tipo di terrorismo rispetto a quello di cui parlavamo degli anni 70, ma anche lì non si limitava all'Italia, non si limitava alla Germania, c'era in Sud America, c'era, e però aveva una piccola matrice comune, che era una lotta di una forma estrema di certi partiti politici che propagandavano una rivoluzione. Ecco, l'Islam ha una, l'Islam ovviamente non dobbiamo confondere, questo che è il radicalismo patologico, oltre l'Islam, oltre la religione, ha un progetto, e il progetto è, diciamo, di distruggere tutto quello che non è un'entità califfale, che in teoria risponderebbe alla parola di Dio attraverso al-Baghdadi. Compresa la parte di Islam che non corrisponde, diciamo, alla loro visione del mondo, quindi ce n'è per tutti. Esattamente, e anche se vogliamo è anche una questione, sociale e numerica, cioè l'Islam numericamente anche in Occidente sta crescendo moltissimo, quindi è normale che una parte, diciamo, di questa popolazione faccia riferimento a un'ideologia che è molto permeante, molto forte, molto radicata nella società, contro il vuoto, perché l'Occidente oggi ha il vuoto, non ci sono più le ideologie del Novecento, non abbiamo più un'idea neanche borghese di dove vogliamo andare, ma siamo nell'ipercapitalismo, nell'iperconsumismo, dove tutto, diciamo, è effimero, mentre loro cercano delle radici, anche inconsapevolmente. Tra le tante storie, diciamo, che hanno segnato quest'ultimo attentato, tutti i giornali hanno insistito su quella che forse è la più emblematica: Faraz Hussein, il ragazzo musulmano che era l'unico che probabilmente sapeva recitare i versetti del Corano, ha detto te ne puoi andare, ma l'hanno ammazzato lo stesso, che lui voleva portarsi via anche le sue amiche e non gliel'hanno permesso. Marco, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo fare una considerazione molto semplice, no? Quello che ha stupito di questo attentato, leggendo i giornali, poi anche sentendo i telegiornali eccetera, l'ha ribadito anche lei prima, è che questi ragazzi, appunto, come si è detto, erano di famiglie ricche, studiavano in collegi prestigiosi eccetera. Secondo me in realtà non dovrebbe stupire molto il fatto che erano di famiglia ricca, avessero tutti i soldi che volevano eccetera, perché secondo me la discriminante tra questi e quelli più poveri è che loro avevano accesso a internet, e probabilmente le fasce più povere della popolazione in Bangladesh, quelle che, diciamo, a me verrebbe da considerare più a rischio per radicalizzazione eccetera, probabilmente questo accesso a internet non ce l'hanno, di conseguenza non hanno neanche modo di venire in contatto anche con le realtà locali, perché probabilmente non lo so. No, adesso sentiamo fra un istante, dopo la pausa, Andrea Priori, vedere se per quello che lui sa conferma questa sua idea. Le dice c'era una fascia talmente bassa come potere d'acquisto in Bangladesh che nemmeno aveva modo di capire e sapere cosa accadesse nel resto del mondo, anche perché stavano davanti a una macchina per cucire dalla mattina alla sera a fabbricare vestiti. Gli unici che avevano mezzi di acquisizione di elementi erano proprio questi, e questi infatti hanno operato. Ci fermiamo un istante, poi avremo la risposta. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. Oggi parliamo del Bangladesh dal punto di vista della nostra esperienza personale. Vediamo cittadini del Bangladesh nelle nostre città, ci saremmo fatti qualche idea che andiamo corroborando, ahimè, a seguito di un evento luttuoso, terribile, però cercando di capire cosa ci sia dietro alle persone che noi vediamo e conosciamo, valutiamo. E un paese abbastanza vasto e abbastanza, mi sembra, da quello che sto sentendo ai miei ospiti, attraversato da contrasti. Velocemente, Paolo, buongiorno. Pronto? Sì, Paolo, l'ascolto. Niente, volevo inserire un elemento di riflessione nella sua trasmissione. Cioè, se voi avevate pensato che tutti gli italiani che sono morti nell'attentato, esecrabile, la violenza non è mai giustificabile, erano degli imprenditori che contribuivano allo sfruttamento delle bambini e delle donne di quel paese, come lei ha detto in trasmissione. Quindi sono molto sincero, non ho elementi per dirlo. È chiaro che chi investe, chi porta parte del suo lavoro in Bangladesh lo fa perché il lavoro costa molto meno. Per costare molto meno, ho capito. Per costare molto meno ci sono essere delle condizioni che non sono quelle che sono alle nostre latitudini. So che ci sono fabbriche di vario tipo e di varia portata, però è chiaro che l'elemento forte per cui le persone vanno a investire in Bangladesh, perché lavorano bambini, lavorano manodopera molto sfruttata, lavorano in condizioni di lavoro estreme. Però se anche gli italiani investissero in questo tipo di cose, per onestà non ho elementi per dirglielo. E sentiamo se invece ci può aiutare Andrea Priori su due o tre cose che sono emerse prima dalle telefonate dei nostri ascoltatori. Innanzitutto sui cittadini del Bangladesh in Italia, rispetto al luogo comune, li vedono correre inseguiti dai vigili con la merce contraffatta. È vero che non hanno capacità di investimento in attività proprie, ma in realtà sono semplicemente dei prestatori d'opera per i cinesi, per altre comunità? No, una rappresentazione assolutamente stereotipata dell'immigrazione bangladese che non corrisponde. Riportiamola alla realtà. Una realtà che innanzitutto è come sempre più complessa di come non la si rappresenti. E purtroppo questo fa fatica, no? Perché con una formula tipo correre via dai vigili urbani non si riesce purtroppo a descrivere tutto ciò che c'è. C'è una realtà molto differenziata a Roma che va dagli imprenditori bangladesi, da coloro che fanno import-export tra il Bangladesh e l'Italia, quindi hanno anche delle ditte abbastanza strutturate, a coloro che hanno dei negozi, dei ristoranti e via dicendo, che sono stati aperti con i propri soldi e che, come in tutte le normali forme di imprenditoria, vengono condotti come una normale società. Io sono onesto, gli scontrini li fanno, a me me l'hanno sempre fatto, ho sempre visto farli. A me sembra che il rapporto fra scontrini emessi da imprenditori bangladesi e italiani sia assolutamente conforme. I bangladesi, come molte altre nazionalità, si sono anche adattati ai contesti che hanno trovato. A Londra hanno strutturato la propria presenza, le proprie attività in base a quello che il contesto offriva, e in Italia in base a quello che il contesto offre. Quindi mi sembra che più o meno facciano la stessa percentuale di scontrini a Roma, una città dove l'informale non è certo stato importato dal Bangladesh, e a Roma mi sembra che sia assolutamente conforme al comportamento degli italiani. Senta, quella cosa che ci ha chiesto un ascoltatore, che la possibilità di far circolare informazioni di tutti i tipi attraverso la rete, esatto, lascia fuori le fasce più povere del Bangladesh, può essere? Allora, qua mi rilascio a quello che è stata un po' la dichiarazione anche del ministro Chaudhuri, no? Che ha detto, oltre a dire una moda, eccetera, ha detto anche questo non è l'ISIS perché questi non vengono dalle madrasa, ovvero dalle scuole coraniche. Con questa affermazione, insomma, il ministro probabilmente si rende anche conto che c'è un passaggio molto nuovo in Bangladesh, perché prima, negli anni 90, quando si erano cominciati a verificare appunto episodi anche ripetuti di cosiddetto terrorismo interno, avevamo un reclutamento che avveniva nelle madrasse, nelle scuole coraniche, nelle zone disagiate, spesso addirittura nelle zone agricole e via discorrendo. Adesso siamo di fronte a un altro ordine di fenomeni, che più mi sembra un po' più connesso anche a livello mediatizzato a quello che è il fenomeno globale della jihad globale. Quindi c'è un salto di qualità che inevitabilmente taglia fuori molte persone che non hanno accesso a internet, anche se c'è da dire che insomma la rete anche in Bangladesh si diffonde abbastanza capillarmente, quindi anche l'uso di uno smartphone non è a disposizione delle persone realmente povere, che purtroppo in Bangladesh sono moltissime, ma è comunque a disposizione anche dei ceti medi, piccoli, dei lavoratori, insomma, ecco, non è proprio un digital divide enorme come uno se lo può rappresentare, ma è vero che quelli che erano, sembrerebbe, i soggetti preferenziali del reclutamento negli anni 90 e 2000 sono effettivamente in media non troppo inclusi all'interno di questa rappresentazione globale dell'Islam. È cambiata leggermente. Sentiamo Fati. Fati, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Fati. Niente, io ci siamo ancora sentiti un po' di tempo fa per un altro motivo. Sì. E io sto seguendo, ma non da adesso, da un po' di tempo, questa ISPA. Però c'è anche una miscela esplosiva tra una situazione economica molto disagiata, diciamo. Lei conosce la realtà del Bangladesh, Fati? No, assolutamente no, guarda, io lo vedo come voi qui a Milano, sono gente pacifica come l'India, tra l'altro. Però cioè, in generale più di una volta... Lei è un ingegnere, se non sbaglio, se ricordo. Mi ricordo. Sono ingegnere. Lei qual è il suo paese di origine? Tunisia. Ah, è un tunisino ingegnere, perfetto. Sì. Lei cosa però pensa? Sono 30 anni che sono qua. Il suo punto di vista, allora? Il mio punto di vista è una miscela esplosiva tra un po' di islamismo e di cose islamiche. Un po' tanto, non tanto un po' forse. No, alla base non è, la base è la matrice comunque. Anche la se, matrice, sì. Se la matrice, distorto... sì, la matrice sì, però io più della volta ho sentito che sono già gente che stanno bene, no? Facciamo così, che prendono $3,000 all'anno, giusto? No, spendono per fare l'università $1,000 all'anno. Poi ci fermiamo un istante, perché devo fare solo una domanda in conclusione a Luciano Tirinnanzi, che è la domanda che più in questo momento ci premeva. Cambieranno le cose per gli italiani in Bangladesh, secondo lei? Dovranno avere delle misure di sicurezza diverse, di attenzione diversa? Beh, questa è la grande domanda. Io non credo che ce ne sia bisogno, nel senso non specificamente degli italiani, ma il problema è che i ristoranti, i locali frequentati dalla popolazione internazionale, quelli sì, quelli sono, diciamo, un problema. Gli hotel e gli aeroporti, cioè diciamo che lo Stato islamico, chi per esso, sa benissimo quale effetto mediatico ha devastare un aeroporto piuttosto che un ristorante, e questo sicuramente necessita un'alfabetizzazione culturale da parte degli imprenditori che vanno a lavorare all'estero, che deve essere sempre maggiore e sempre più accorta. Sicuramente abbiamo un deficit di sicurezza, ma non solo lì, io citerei anche Indonesia, Filippine, Malesia, dove sono presenti, diciamo, queste nuove leve del jihadismo. Benissimo, che faranno di tutto. Se no la sigla la interrompe, la ringrazio, ci risentiremo presto visto che l'argomento non è certo esaurito.